Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di donne illustri, partendo da una figura molto famosa per il nome che ha portato, ma relativamente poco conosciuta. Si tratta di Virginia Agnelli, la moglie di Edoardo e la madre di 7 figli, tra cui Giovanni Agnelli. La sua vita è ricostruita nel libro di Marina Ripa di Meana e Gabriella Meccucci, Virginia Agnelli, madre e farfalle, pubblicato da Minerva, 288 pagine, 19 euro. Perché farfalla? Perché Virginia Agnelli ebbe una vita molto breve, intensa e drammatica, visse 46 anni, morì in un incidente automobilistico ed era rimasta vedova a 36 anni, quando il marito era rimasto a sua volta vittima di un incidente aereo, anzi con un idrovolante. Virginia proveniva da una nobile famiglia romana, era nata a Palazzo Barberini e dopo la morte del marito dovette ingaggiare un durissimo scontro con il suocero, il potentissimo senatore Agnelli, che voleva toglierle il controllo dei figli, anche perché l'accusava di una relazione con Curzio Malaparte. Nel libro abbiamo una ricostruzione di questa vita, ma soprattutto una bellissima ricostruzione di quegli ambienti della Roma aristocratica del primi del Novecento e poi del matrimonio, della vita a Torino, del rapporto con Edoardo Agnelli e della vita mondana e sociale nella quale Virginia Agnelli era certamente una delle regine. Ma sentiamo l'autrice. Buongiorno a Gabriella Meccucci. Buongiorno. E signora Meccucci, che cosa ha tratto lei e la signora Ripa di Meana di Virginia Agnelli, tanto da spingervi a cercare delle fonti e a scrivere questa storia così approfondita sulla sua figura? Ma innanzitutto la cosa più attraente è che non se ne sapeva nulla di lei. Era una figura sconosciuta di cui qua e là trapelavano delle notizie di un certo interesse. La più nota era quella che aveva avuto una lunga storia d'amore con Curzio Malaparte, l'altra che aveva partecipato, si diceva in qualche libro di storia, alla preparazione dell'incontro tra Pio XII e il generale Wolf. E allora erano dei particolari della vita che la rendevano diciamo piuttosto interessante, oltre al fatto che lei era la madre di 7 figli diciamo notevolmente importanti e che aveva avuto, si sapeva anche questo molto vagamente, una vita molto difficile e anche breve, perché come si legge è morta a 46 anni. Senta, 2 uomini non fanno una grande figura in questa vostra ricostruzione. Il primo è il suocero, il senatore Agnelli. Il senatore Agnelli è un grandissimo personaggio e ha dimostrato diciamo in altre imprese la sua caratura. Certamente nel rapporto con la nuora qualche caduta di stile ce l'ha, perché quando arriva al punto da farla pedinare dall'ovra, dalla polizia segreta fascista, di chiedere esplicitamente lui in prima persona al capo della polizia Arturo Bocchini di il pedinamento della nuora. Perché lo fa? Perché vuole avere in mano tutte le prove che lei ha una storia con Curzio Malaparte, accusarla di immoralità e portarle via i 7 figli, operazione che peraltro all'inizio gli riesce. Ecco, l'altra figura appunto è Curzio Malaparte, che non esce proprio bene da questa vicenda. A Curzio Malaparte dirò che, se posso intervenire personalmente da biografa, è quello che a me sta più antipatico di tutti, perché mentre per il senatore Agnelli capisco le cadute di stile, sono anche comprensibili per un uomo d'epoca, eccettuata la vicenda dell'ovra, invece Curzio Malaparte è proprio antipatico, cioè è una persona che fa il tomber de femme, il Latin lover, ma non ama per nulla le donne, ha un atteggiamento anzi sprezzante nei loro confronti, e il mio passato diciamo da femminista si indigna abbastanza da questo punto di vista. Poi si comporta male tutto sommato con Virginia, perché insomma certamente ne è attratto, perché Virginia peraltro era una donna bellissima, ma è anche attratto dal suo denaro, dalla collocazione sociale, cerca di sfruttare un po' la situazione e insomma non ci fa per tante ragioni una bella figura Curzio Malaparte, e devo dire che a me sta abbastanza antipatico. Poi è una persona piena di sé, è uno che cerca, che diciamo tutto sommato non è capace di amare nemmeno. Lei ha accennato a un aspetto che approfondite nel libro, appunto questo ruolo che probabilmente Virginia Agnelli svolse per il salvataggio di Roma dai tedeschi. Che cosa fece effettivamente allora la signora Agnelli? Beh, lei lì ha un ruolo molto importante. Se uno ha la pazienza di confrontare alcune fonti storiche, e si accorge che lei è stata proprio protagonista, mi spiego meglio. Dolman, che era un ufficiale dell'SS e che era anche lui, frequentava Virginia, aveva un rapporto, se vuole, salottiero e anche da corteggiatore, insomma, ma scrive nelle sue memorie, dà atto a Virginia ad essere la protagonista prima nel tessere, diciamo, i rapporti sia con la curia romana sia con i tedeschi, con l'esercito tedesco e con le SS, per arrivare a questo incontro. Lei, attraverso una serie di cardinali, lentamente riesce ad avvicinarsi al Papa, è molto abile e francamente è anche sorprendente che una donna così, diciamo, la quale più che altro è dedita da una parte alla vita familiare e dall'altra alla mondanità, insomma, sia così acuta e perseverante nel perseguire questa operazione. Dolman, che è, diciamo, il suo cavallo di Troia all'interno delle SS, lavora molto, gli presenta una serie di ufficiali sempre di grado superiore, fino a quando convincono Wolf a fare questo incontro con il Papa. Poi Wolf arriva con la divisa e il Papa non può riceverlo, perché sa che con la divisa il Papa non ti riceve con una divisa dell'esercito, e quindi dovettero anche correre a comprargli un vestito, perché sennò saltava tutto. E senta, lei ricordava all'inizio che della vita di Virginia Agnelli si sapeva poco, ma insomma la sua figura è stata abbastanza censurata anche in fondo dalla famiglia, un po' come il figlio Giorgio? Sì, è sicuramente questa, ed è come le dicevo, come le accennavo all'inizio, anche questa è la ragione. È stato come restituirle qualcosa a questa donna da parte nostra, quella di indagare sulla sua vita e di scrivere questo libro, perché francamente è abbastanza antipatica questo sbianchettamento della madre che hanno fatto gli Agnelli, insomma, questa quasi totale cancellazione, con, devo dire, l'eccezione di Susanna, che investivamo la Marinara, un po' ne parla della madre e ne parla anche con un certo affetto e con una certa comprensione. La doveva amare molto, si trapela dalle righe di Vestivamo la Marinara. Perché l'hanno sbianchettata? Ma quello che l'ha cancellata di più è stato Gianni. Credo che le ragioni siano, da una parte, il forte conflitto che questa donna ebbe con il suocero, di cui abbiamo già parlato, insomma, e il nonno è stato praticamente una sorta di padre per Gianni, per cui lì c'era un rapporto particolare tra nonno e nipote, che ha teso ad emarginare e a non far stimare troppo questa donna dal figlio. Dall'altra, io credo che fossero anche le vicende, diciamo così, trasgressive della madre che lui ha voluto occultare in un certo senso per salvaguardarne anche la memoria, cioè in questo c'è anche probabilmente un filo d'affetto, perché poi in effetti Gianni ha cancellato la madre, ha pagato Bolognini perché non facesse una riduzione televisiva di Vestivamo alla Marinara, ma in realtà poi teneva nella sua stanza, nella sua camera, l'unica fotografia che teneva era quella della madre, quindi c'è un rapporto anche doppio, diciamo. Grazie a Gabriella Meccuccio, autrice con Marina Rippa di Meana di Virginia Agnelli. Grazie a lei e grazie a chi ci ha ascoltato. E il ruolo di Virginia Agnelli durante l'occupazione di Roma da parte dei tedeschi viene confermato nel libro di Michael Eisenman, Pio XII, il Papa che si oppose a Hitler, Paolina, 336 pagine, 24 euro, tradotto da Dario Rivarossa. Questo è un libro nel quale lo storico tedesco vuole sfatare, documenti alla mano, l'immagine di Pacelli connivente col nazismo o indifferente alla Shoah, per dimostrare invece gli sforzi fatti sin dai tempi della sua nunziatura a Monaco per opporsi al nazismo. Le altre donne di grande personalità sono tre attrici, due le troviamo nello stesso libro, Le amanti del vulcano, Bergman, Magnani, Rossellini, un triangolo di passioni nell'Italia del dopoguerra, ne è autore Marcello Sorgi, giornalista, ex direttore del TG1 della Stampa, pubblicato da Rizzoli, 208 pagine, 18 euro. Quindi troviamo due grandissime attrici come Ingmar Bergman e Anna Magnani, protagoniste di questa storia, di questo triangolo che si svolge nelle isole Eolie. La storia è quella di Rossellini e della Magnani in crisi nel loro rapporto. Rossellini quasi casualmente entra in contatto con Ingmar Bergman e si accende di una passione che lo porta a volere lei, protagonista del film che doveva produrre nelle isole Eolie. praticamente non onora il contratto, avvia questo film con Ingmar Bergman e non con Anna Magnani, che avrebbe dovuto essere la protagonista e che già si era mangiata la foglia e cominciava a sfogare le sue crisi di gelosia, in certi casi buttando un piatto di spaghetti in testa allo stesso Rossellini. Insomma, finirà che di film alle ole se ne faranno due, quello di Rossellini e della Bergman, che si intitola Stromboli, e quello della Magnani col regista William di Terle, che si svolge invece a Vulcano, con gli stessi titoli. E questo libro descrive non tanto la passione di Rossellini per l'attrice svedese, che poi, come ricorderete, sposerà, ma l'impresa parallela di questi due film, che finirono poi per non avere grande successo, anche se, come spesso succede in Italia, divisero l'opinione pubblica, come scrive appunto Sorgi in queste righe che vi propongo. Ma la rivalità superava ormai le due protagoniste per dividere il pubblico dei lettori. Secondo l'inviato della provincia di Cremona, Mino Dardi, c'erano ormai due partiti, uno che chiameremo Stromboli e uno a cui va il nome di Vulcano. Se i nostri calcoli non sono troppo errati, possiamo paragonare, per numero di aderenti e simpatizzanti, il partito detto Vulcano alla Democrazia Cristiana e quello detto Stromboli al Partito Liberale o al Social Fusionista o al compianto Partito d'Azione. Come dire, 1 a 30 o 1 a 40, considerando le dimensioni del partitone democristiano dopo il 1948, e soprattutto per il partito Bergman, percentuali da 0, virgola. L'altra attrice è la grande Sophia Loren, che troviamo nel libro di un'altra giornalista, Silvana Giacobini. Sophia Loren, Una vita da romanzo, Le verità nascoste, pubblicato da Dalai, 242 pagine, 20 euro. Qua siamo di fronte a una biografia che cerca di mettere in luce gli aspetti meno noti della grandissima attrice, a partire dalla difficile, spesso difficilissima giovinezza nella Pozzuoli della guerra e dell'immediato dopoguerra. E poi da lì la carriera e il successo, segnati da incontri, opportunità, realizzazioni che Silvana Giacobini ricostruisce puntualmente, anche per esempio nelle giornate più dure per la Loren, quando dovette scontare un breve periodo di reclusione al carcere di Caserta in seguito a una condanna per evasione fiscale che concluse un processo che lasciò qualche dubbio. Ultimi arrivi. In tema di cinema e di star vi ricordo il libro di Enrico Giacovelli, Marilyn Monroe, vita, carriera, amori e film, è pubblicato da Lindau, 92 pagine, 14,50 euro. È un libro molto importante, efficace per i fan di Marilyn, che vi troveranno una sintetica illustrata e simpatica carrellata sulla breve vita della grande attrice, il cui anniversario della morte è caduto proprio il 5 di agosto. Poi troviamo Fellini, in Fellini e Fellini di Italo Moscati, lui stesso regista oltre che scrittore sceneggiatore, da Rimini a Roma, inquilino a Cinecittà, 230 pagine, 14 euro, pubblicato da EDS e Rai Eri. E infine, restando sul tema delle donne, parliamo di un libro che ci presenta una donna speciale, modesta e non famosa, ma capace di gesti straordinari. È La mamma dei carabinieri, questo è il titolo del libro di Longanesi, di cui sono autori Alessio Puleo e Filippo Vitale, 214 pagine, 15 euro. Questa è la storia vera di Domenica Lupo, una signora di Palermo che ha assistito per anni i carabinieri che proteggono la casa dei familiari di Paolo Borsellino. La signora quasi adotta questi ragazzi, ne diventa la mamma, finché uno di loro, che è appunto Alessio Puleo, che poi si dedicherà al teatro, ne ricostruisce la storia, che riserverà delle sorprese inaspettate. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato, a proposito della Bergman e della Magnani, dell'antipatia, della stizza, della gelosia, insomma del rapporto battagliero che ci può essere tra le donne. Addirittura questo rapporto può diventare di vero e proprio odio. Di questo parla il libro che adesso vi presento, di Tiziana Maiolo, giornalista, politica, che si intitola Donne che odiano le donne, pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 17 euro. Tiziana Maiolo è una personalità interessante, io la conosco personalmente, siamo stati anche colleghi in un'esperienza amministrativa, una personalità forte che l'ha portata da ultimo a un rapporto burrascoso col sindaco di Milano. Per la Maiolo il rapporto di antipatia che ci può essere tra le donne può assumere un carattere veramente patologico e lo spiega lei stesso nelle prime righe del suo libro che adesso vi propongo. Ci sono donne che odiano le donne, Ci sono donne che odiano o amano le donne. Ci sono donne che soffrono le donne. L'odio, l'amore, la sofferenza sono sentimenti che appartengono al mondo delle donne, che vengono spesi nei rapporti tra donne. Sono l'involucro nobile. Dentro corrono le miserie, che si chiamano invidia, gelosia, sgambetti, colpi alla nuca. In tante oggi mi dicono, il miglior killer di una donna è sempre un'altra donna. Occorre domandarsi il perché. La risposta non è difficile. Mancanza di autostima e insicurezza rendono la donna killer. In ogni Cenerentola si nasconde una sorellastra. Sua tesi è illustrata nel libro con dovizie di particolari, non solo autobiografici, che illustrano tanti aspetti della politica che la Maiolo ha percorso e vissuto per tanti anni, militando all'inizio in movimenti di estrema sinistra, salvo poi approdare al centrodestra. L'odio ci introduce al tema dei peccati e delle trasgressioni, di cui adesso vorrei parlare, anche perché magari questo clima estivo lo può favorire. E allora, se volete ispirarvi, vi segnalo la raccolta di 21 storie raccolte sotto il titolo Seven, curato da Gianfranco Orsi e pubblicato da PM, 402 pagine, 19 euro. Troviamo qui 21 autori, alcuni anche molto noti, che si esercitano sul tema di un vizio capitale, imbastendo una storia, non tutte dello stesso valore naturalmente, che si concludono ciascuna con un riferimento diretto al peccato che si è descritto. Sentite per esempio queste righe, delle righe ironiche di Andrea Vitali sulla lussuria. Tra i 7 vizi capitali ho pescato la lussuria perché è quello verso il quale mi sento meno portato. Intendiamoci bene, sono normalmente dotato di ormoni che però hanno tendenze moderate, a volte addirittura accidiose. Ne consegue che con la fantasia a volte mi capita di combinare sfracelli che all'atto pratico però non trovano il soggetto ideale per farsi realtà. Meno male che c'è la scrittura, che della fantasia è la figlia terrena e che permette l'illusione di essere ciò che non si è. Perché tra l'altro, per essere lussuriosi, ci vuole il fisico e io non ce l'ho. Un dotto libro sulla lussuria è quello di un grande filosofo, Giulio Giorello, che si intitola appunto Lussuria, la passione della conoscenza, è pubblicato da Mulino, 200 pagine, 15 euro. L'obiettivo del libro è ambizioso. Prenderemo spunto, scrive Giorello, da alcuni casi esemplari nella realtà storica, nella letteratura, nelle arti figurative, cinema e fumetto inclusi, nella musica, per indicare come la lussuria offra buona materia alle due forme principali della filosofia, alla teoria della conoscenza e a quella della politica. La lussuria, insomma, può essere anche una scelta, uno strumento di sovversione, come dimostra per esempio l'opera e l'esperienza del Marchese di Sade. Il suo modello, scrive Giorello, è una permanente insurrezione. Pace e tranquillità finiscono col paralizzare le dinamiche sociali, mentre una perpetua immoralità porta nel paese un'incessante agitazione in cui il repubblicano, qui è citato De Sade, deve mantenere sempre il governo di cui è membro. Siamo lontani dalla concezione delle istituzioni cara a Robespierre. Come vedete, un libro dotto e intrigante anche per la ricchezza dei riferimenti letterari, artistici e filosofici e per la documentazione fotografica che l'accompagna. Continuiamo a esplorare questo argomento con Erotic Horror, 18 racconti dell'orrore, curato da Jeff Gelb, Lon Fry and Michael Garrett e per edizione italiana da Carlo Bordoni. È pubblicato da Bompiani, 276 pagine, 16 euro ed è tradotto da Stefano Massaron e Carlo Bordoni. Il libro dà più di quanto propone il titolo, che è veramente sconclusionato. Trattandosi della traduzione di una fortunata serie in due volumi del 1989, uscita negli Stati Uniti, tanto valeva, inglese per inglese, lasciare il titolo originale, che secondo me era molto più efficace, Hot Blood, sangue caldo. Si tratta comunque di 18 racconti di autori americani sul tema del rapporto tra amore e morte. Alcuni sono degli autentici capolavori. Non aspettatevi pagine particolarmente pruriginose, ma semmai un clima sospeso e morboso che può offrire qualche conferma anche alle intuizioni di Giorello di cui abbiamo appena parlato. E a questo punto, il confettino. un grande vizioso, presentiamo oggi ai piccoli lettori, ai ragazzi per la verità, ed è Nerone, nella terribile storia di Nerone raccontata da Andrea Giardina con le illustrazioni di Emanuele Luzzatti, pubblicato dalla Terza, 100 pagine, 12 euro. Si tratta di un esempio ben riuscito di divulgazione ad alto livello per i ragazzi, grazie anche alla stretta collaborazione tra lo storico e l'artista. Luzzatti, infatti, dice Giardina, è riuscito con le sue tavole a influenzare la sua stessa scrittura. Ritorniamo ai libri per adulti. Abbiamo parlato di trasgressioni. Ecco, se pensate di averne fatte troppe o se vi siete stancati, vi segnalo due libri su due figure della santità contemporanea, due figure molto diverse tra di loro ma molto popolari. Entrambi i libri sono pubblicati da Rizzoli. Il primo è di Giovanni Sena, che è un giornalista novantenne di San Giovanni Rotondo, che quindi ci parla di Padre Pio nel libro Il mio amico Padre Pio, diario di 30 anni vissuti accanto al santo di Pietrelcina, 226 pagine, 16,50 euro, un libro documentario sul lunghissimo sodalizio avuto col padre francescano, un sodalizio iniziato negli anni 20 e poi proseguito fino alla morte del futuro santo. L'altro libro, sempre pubblicato da Rizzoli, è quello di un prete americano, Joseph Langford, Il fuoco segreto di Madre Teresa, 306 pagine, 19 euro, tradotto da Alessandra Borgonova e Claudia Valentini. Anche questa è una testimonianza diretta, molto da vicino, infatti questo sacerdote collaborò con Madre Teresa alla fondazione di un ordine religioso. Ma questo su Madre Teresa non è un percorso biografico, ma lo sforzo soprattutto di attingere anche alle fonti della spiritualità della Beata. Torniamo a Roma antica, ci siamo accostati poco fa con Nerone, allora vi propongo una ricostruzione romanzata del periodo imperiale che ci viene offerta dai due volumi dello scrittore inglese Robert Graves, morto nel 1986, che fu un grande divulgatore della cultura greca e romana. Di lui ricompaiono Io Claudio e Il Divo Claudio, sono pubblicati da Corbaccio, 400 pagine il primo, 394 il secondo, entrambi costano 19,60 euro e sono tradotti da Carlo Coardi. Di Nerone, di cui abbiamo parlato appunto, Claudio fu il padre adottivo e il predecessore. Fu il quarto imperatore di Roma, quasi per caso, essendo stato fino ad allora considerato poco più che uno stupido. Ricorda lui stesso nel libro di essere soprannominato Claudio l'idiota o Claudio il balbuziente o Claudio. Uno in piedi sul tavolo gridava gesticolando: «Al diavolo la Repubblica! La nostra unica salvezza è un altro imperatore! Chiunque sia, un imperatore ci vuole! Se solo possiamo persuadere i Teutoni ad accettarlo!» «Eleggiamo Incitatus!» motteggiò qualcuno. «Per Giove, sì! Meglio il ronzino che niente! Qualcuno dobbiamo pur trovarlo, altrimenti i Teutoni chi li tiene? E quei demoni ce la faranno pagar car, credete a me!» Grato mi sospinse davanti a sé. «L'ho trovato, caposquadra. È Tiberio Claudio. Perché non lui? È un po' zoppo e balbetta, ma non c'è uomo in Roma che valga quanto lui. Acclamazioni, risate, grida di «Viva Tiberio Claudio imperatore!» «Sicuro! Tiberio Claudio imperatore! Sollevatelo! Qui, sul tavolo!» Due uomini m'acciuffarono e mi presero a cavalcioni sulle spalle d'un terzo. «Viva Tiberio Claudio imperatore! Mettetemi a terra!» balbettavo io nervosamente. «Mettetemi a terra! Non ho nessuna voglia di farli imperatore! Rifiuto! Viva la Repubblica!» «Questa è buona!» gridarono contorcendosi in risate. I libri di Graves, che ebbero molta fortuna, sono dunque un'ottima guida per ripercorrere un tratto importante della storia romana. Se andate a visitare delle zone archeologiche, vi consiglio di leggere il libro di uno storico olandese, Fick Meyer, Il mondo di Ben-Hur, lo spettacolo della corsa nell'antica Roma, pubblicato dalla Terza, 242 pagine, 9,50 euro, ed è tradotto da Claudia di Palermo. Questa è una bella e gradevole ricostruzione, gradevole anche per le immagini che sono contenute nel volume, della passione di Roma per le corse, uno spettacolo che nella capitale richiamava almeno 150.000 persone al circo massimo nelle giornate più importanti, e 150.000 persone che andavano dall'imperatore fino agli schiavi. Era un momento importante questo della mobilitazione intorno a un evento sportivo come le corse dei cavalli, che dava non soltanto sfogo alla passione del popolo romano, ma serviva come poche altre manifestazioni a cogliere gli umori del popolo, come spiegano le prime righe di questo libro. Per il popolo, il circo massimo era il luogo in cui dimenticare le preoccupazioni quotidiane e allontanare momentaneamente il pensiero di non contare nulla all'interno della gerarchia sociale romana. Per l'imperatore, il circo massimo aveva un significato del tutto particolare. Era il momento in cui si trovava faccia a faccia con il popolo. Già all'ingresso, dal baccano sulle tribune, capiva quanto fosse popolare tra la gente. Tramite fischi o acclamazioni, il pubblico gli faceva sapere cosa pensava di lui. In questo senso, il Circo Massimo fungeva da barometro politico. Con l'abolizione delle assemblee popolari all'inizio dell'epoca imperiale, era l'unica occasione in cui il popolo poteva far sentire la propria voce. La passione poi si sarebbe trasferita, come ricorderete, a Costantinopoli. E qui nel libro si parla anche delle trasposizioni cinematografiche, tra cui appunto quella celeberrima di Ben-Hur. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. In particolare, Un libro tira l'altro va in replica sabato alle 16:30 e poi domenica alle 13:30 per la nuova puntata. Buona settimana a tutti.